ben mio con l'essere io tuo, tu mia consorte. Avrò più l'alma intrepida, il braccio avrò più forte, ma pur se nella pagina dei miei destini è scritto che io resti fra le vittime dal ferro stil trafitto, che io resti fra le ferro stil trafitto fra quegli estremi aneliti, a te il pensier verrà, verrà e solo il ciel precede. Estremi aneliti, la morte a me parrà, parrà, e solo il cielo precederti, la morte a me parrà, la morte a me. Precederti la morte a me parrà, la morte a me parrà. Qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile leggiadro viso, impianto e riso è menzognero. La donna è mobile qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero. E di pensier, e di pensier. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, malcauto il core, pur mai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non lima amore. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensier. E di pensier, di pensier.

o grido, grido dell'onore, ma avrai sicuro vindice quest'onta lavero. O mio suor, o infamia, così quest'onta lavero, si lavero. O mio suor, o infamia, o se quest'onta, si quest'onta laverò, quest'onta, quest'onta laverò. Rimorso infamia, io vissi in tal errore, ma il turpe sonno a frangere, il vermi valero. Per poco in cielo acquetati, o grido, grido dell'onore, ma avrai sicuro vindice quest'onta lavero. O mio suor, o infamia, o se quest'onta lavero, si lavero. O mio suor, o infamia, o se quest'onta, si quest'onta lavero, quest'onta, quest'onta lavero. Udite or tutti del mio cuore gli affanni, e se voi negherete il vostro aiuto, forse per sempre Ernani fia perduto. Come ero già dal cespite appassito fiore, d'aragonese vergine, scendea mi voce al cuore. Fu quello il primo palpito, il primo palpito d'amore, d'amore che mi bea. Il vecchio Silva stendere osa su lei la mano, domani trar l'altalamo con fidali affanno, affanno, affanno morirò, affanno io morirò. Rapisca, si arrapica, ma inseguirci sta l'artica. E il giuro, se ti seguiremo, ma tu non te c'è il tuo cuore, tu ti avrai compagno d'ora. Dagli sferri tu rivale, che ti ascolti ogni dura. E mi accorgi la tua bella, e poi mi fia la stella, sarà premio a tuo valore, sarà premio a tuo valore. Thank you.

che canto senza te. There's a wind that blows.

perdutamente voli infiniti

potuto perderti e mi manchi tu. Una malinconia dolcissima, il tuo sorriso nell'andartene. Aspetterò anche un ritorno impossibile, sembra possibile. E qui dal posto